vecchie. Andiamo, andiamo, che è te? Ciao Lucrezia, di nuovo tu sì. Va bene, io chiudo perché sono... Dai, ho appena fatto un'oretta di QSO. Un po' mi sono divertito, intanto ci vuole. Sono passato qua, dai, nascosto. Anche qua c'è propagazione. Sì, ma è basta per me, là era 9. Ah, beh, mi arrivano 9:10. 8, 9, era con questi B però, sembrava che camminasse. Ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione canale 10. Hola, attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. Canale 10, c'è qualcuno? Hola, amigo. Chi è avanti che chiama? Sezione 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno qua sul canale 10? CQ 10? CQ canale 10, c'è qualcuno? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Canale 10, c'è qualcuno su 10? Hola? Avanti? E beh giù. Oh, ciao, vabbè. Mi ho fatto un paio di chiamate, non c'era nessuno. Da 140 ancora nessuno si era affacciato. No, ci sono già, non dico una mezz'oretta, ma almeno 25 minuti, sì. Ho chiamato anche io diverse volte, non ha risposto nessuno, poi mi sono spostato, adesso stavo parlando con questi amici di Siracusa, vivo Valenza, e pare qualcuno ci avevamo parlato con te, infatti mi hanno riconosciuto, detto, ci siamo sentiti l'anno scorso, ti ricordi c'era anche tu, un certo Nicola, un certo Franco, Carmelo, li abbiamo sentiti insieme, infatti mi hanno riconosciuto loro. Sì, me lo ricordo, sì. Sì, beh, c'è propagazione. No, io ho fatto un paio di chiamate ieri di preparazione, ho collegato la Spagna, Barcellona per esattezza, e poi la Svizzera. Ma sono stato 5 minuti e poi basta. C'era anche Antonio Bombolo, che anche lui stava tentando di fare il collegamento, ma aveva un po' di difficoltà. Io con questo baracchino qua ci sono arrivato bene, Santiago Lobo e Radio Bomba mi hanno detto, per cui non so cosa dire. Va bene, dai. Meglio così, adesso la preparazione sembra che sia aperta, ma io ancora non è che sono in condizioni di farne tanto, perché non c'è la radio che devo avere, cioè, sto aspettando che arrivi, dopo si vedrà. Però quando è così la propagazione non mi piace, è troppo larga perché prende tutta la parte bassa dell'Italia, si sovrappongono uno con l'altro, infatti stavano mezzo bisticciando pure, parlo io, ci sono io, lascia parlare a me. In FM arrivavano 9:20, mi ha detto il tipo, arrivavo benissimo, anche loro arrivavano belli forti, poi c'era qualcun altro che deve essere attaccato, era un bel sastro, però mi hanno ascoltato sempre perfettamente, finché poi mi sono spostato perché alla fine era una confusione totale uno sopra l'altro, infatti ho detto io vado via. Certo, dipende anche dai giorni, da come è messa la propagazione. Se la propagazione è molto lunga non c'è problema, si arriva proprio a bomba, certo, ma è così. Vabbè, lo so, purtroppo quando ci sono questi giorni così di propagazione tutti vogliono parlare, si accavallano l'uno sull'altro, anche perché tante persone non si sentono fra di loro e allora magari chiamano quelle persone che sentono e magari sono già in collegamento con altre ancora, per cui succedono questi accavallamenti, ma comunque è normale, no? La preparazione purtroppo è così. Vabbè, lasciamo un attimo il bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti sul 10, se no riprendi tu giù. Vai giù. Che è avanti? Avanti sul 10. Mezzo a correre, ma non si capisce quello che sta dicendo. Ok, come stai andando tu? La radio di ieri c'hai giù? Sì, sempre quel baracchino vecchio, sì. Vecchio, già è nuovo, però è vecchio di data, dai, come un baracchino di 50 anni fa. Non è un granché, insomma, ecco. Soprattutto la ricezione non è un granché. Vabbè, sto aspettando, adesso arriverà, penso che questa settimana arriverà la radio, speriamo bene, quello che ti dica. L'avevano già spedita, per cui sarà in viaggio, non lo so. Stanno tardando, perché questi cazzo di corrieri, guarda, noi abbiamo una ditta che ordiniamo del materiale per fare il nome la Berner, e mi è capitato la roba di ordinarla oggi e l'indomani mattina ce l'avevo, così anche la Renault, mi è capitato con la Renault. Poi ci sono questi cazzo di corrieri, questi grossi Bartolini, TNT e cosa, che dovrebbe essere veloce, invece niente. Mentre su ordini da Amazon, mi è capitato da Amazon ordinando la mattina, cioè la sera, e l'indomani mattina era qua, poche ore era arrivato. Ecco. Avanti bre. Buonasera Roberto. Sì, buonasera, chi sei? Avanti. Danilo. Marino. Danilo. Ah, ciao Dani, non ti avevo riconosciuto, scusa. Ieri lo stesso, parlando un'ora, convinto stessi parlando con Marino, invece era Vannino. Non ci complidiamo, io alla fine sono stato, mi sono reso conto, ma cacca, Vannino è dissorto, Marino non era dissorto. Vai Dani, per Giulio. Sì, ciao Giulio. Ciao Dani, ben entrato. Sì, può succedere che se uno si confonde così, soprattutto se rimane magari un po' di tempo senza sentirlo, purtroppo succede così. Tornando al discorso dei corrieri, questo penso che viaggi con la SDA, però si sa, è uguale, non è che cambia molto, TNT o altre spedizioni ieri sono più o meno la stessa cosa. L'unico però c'è veramente Amazon. Tu ordini adesso, domani in giornata c'hai il materiale, è una cosa guarda, favolosa. Anche oggi noi abbiamo ricevuto un pacco sempre da Amazon, ma è una cosa spettacolare quell'azienda lì. Bene, avanti Dani. Sì. Allora, vi volevo chiedere se per caso conoscete qualcuno che sta cercando antenne per la 27. E che antenne? Stai dando, aspetta, che forse può interessare a uno. Che antenne stai dando? Sono Grand Plain, ed è quella per la 27 MHz. Aspetta che ti do il nome, il proprio esatto dell'antenna, aspetta. Ok, no, perché proprio poco fa stavo parlando al telefono. Un amico che se sta comprando una provvisoria proprio perché la Mantova Turbo l'ha buttata giù perché la deve sistemare. Che caso strano, si è rovinata e dunque adesso se la sistema. Però per avere ancora modo di modulare se ne sta ordinando un'altra. E può darsi anche che cambi idea, si possa prendere la tua. Vediamo un po'. Avanti Roberto nel frattempo. No, vabbè, io già ce l'ho di scorta, una Mantova Turbo mi sono tenuto, quella di Salvatore Maestrale nuova, per emergenza, se ci rompe questa, poi c'ho la Mini Grand Plain e poi una cosa, di quelle a canna da pesca, e più c'ho le direttive, e ne ho una che devo montare e un'altra piccolina, sempre lo stesso che mi ha dato Salvatore Maestrale, però una piccolina. Ok, sì, anch'io ce l'ho di scorta, sempre quello. Sto usando la Game Master, la Mantova Turbo, ce l'ho nuova, che è sempre nuova, e poi ne avevo già costruito un'altra, sempre canna da pesca, però quella non è originale, per cui però va bene lo stesso, non c'è problema. E un po' sei rientrato Dani, avanti. Non è che sono rientrato, sono sempre qua, passando il cellulare in mano. Comunque, prenditi carta e penna, Giulio, e scrivi. Beh, Giulio. Sì, un attimo, sto prendendo la penna. Avanti Dani. Allora, Sirio, Signal, KEER27. KEER27 della Sirio. KEER27, sì, della Sirio. La Sirio Signal KEER27. Ok, ti ripeto la sigla. Allora, Sirio K R E 27, così è. Sì, era così, solo che c'è qualche bambino che si sta divertendo a rompere le scatole sovramodulare. E questo segnale non è che è molto difficile da capire. Comunque, continuiamo a parlare fra di noi. Ok, ora c'è che sia propagazione anche, perché c'è propagazione oggi, non lo so. Non è propagazione oggi. Un segnale del genere è difficile che sia propagazione, a 9.40 è difficile. Ho capito, è di solito deficiente, è di solito imbecille, è abbastanza adulto che sta facendo il cretino. L'abbiamo sgamato comunque, stia attento perché forse si prende una bella denuncia. Avanti, vabbè. Ehi, stavo dicendo, Dani, mi ha detto Grand Prix perché anche altre antenne ci sono. Sì, vabbè, ci sono altre antenne, però sono veicolari e per le... che fanno anche sempre Grand Prix, gli altre, che fanno 400-470. Ma di chi sono queste antenne? Mie, sono tutte procurate. La roba usata o nuova, Vabbè, nuova ancora in cellofanata, non ti dico altro. Mandami, tanto il mio numero ce l'hai, Dani, quella delle PLU, e scrivimi qualcosa, il modello e il prezzo. Però devo uscire fuori in garage a farti le foto. Ma urgenti ti servono? Non ho capito. Che devo uscire fuori in garage a fare le foto. Urgenti ti servono queste foto? No, non ti preoccupare, adesso è venuta la discussione, non c'è problema. Solo così per capire di cosa stiamo parlando. E poi perché altre frequenze c'hai? Ho visto che ci sono 27 MHz, un pacco di 27 ce n'è. E poi c'ho queste da U. Poi c'ho anche i gommini per i portatili, sempre 27. E poi un'altra cosa, ti ricordi quella cosa che avevamo visto da te? Che notizie mi dai, Dani? Già me lo ricordo ancora, Rob. Quello lì dobbiamo aspettare un attimino perché non lo trovo più adesso. Adesso stiamo facendo nuovamente quel macchinario là e sicuramente lo ritrovo. Mi viene nuovamente in mano e provo a richiederglielo. Speriamo che non abbiano schiacciato, cioè. Vabbè, se ti do una parola che lo chiedo per una persona, non lo romperanno mai. Perché l'altro giorno l'ho preso e l'ho spostato, perché stavamo facendo un lavoro lì vicino. Ehi, fammelo sapere, che quello devo mettere un'altra cosa sopra e quello mi va bene. Naturalmente ha un prezzo ragionevole. Scusatemi un attimo il telefono. Riprendo io allora, visto che al telefono Roberto. E questa è la 27 che com'è l'antenna? Nuova, com'è usata, com'è Dani? Giulio, sono ancora in cellofanate, c'hanno il cellofan, sai cosa vuol dire nuova la roba? Come quando la compri dal negozio? Precisa, ancora col cellofan e l'etichetta sopra. C'ha ancora l'adesivo, tutte quante le caratteristiche, tutto quanto c'ha. Sono nuove di pacche, non hanno nemmanco toccato acqua. A dire che avranno toccato il sole anche troppo. Acqua proprio, manco a vederne. Ok, ho capito. Allora scusa un attimino che faccio una telefonata, perché stasera stavo parlando con un amico che se la voleva ordinare, ossia che faccia prima lui a ordinarsela, e gli chiedo se può essere interessato. Solamente un attimo, Dani, mi faccio una telefonata, ok? Ok Giulio, vai tranquillo. Sono rientrato. Sì, Robe. Quindi già hai messo da parte, Dani, come avevi detto. Sì, è sempre dove l'avevi vista tu, solo che l'ho portata ancora più su. Cioè, più su la porti e meno ne toccano. Ma quella lì era sempre di lui o era in Viale Porto Torres? No, non ti ho capito, cos'è che mi hai detto? Quello era lì o era in Viale Porto Torres quella roba? No, l'ha portata uno che l'ha scaricata la sera prima. Ah, ok. Va bene, avanti Giulio, a te. Sei al telefono, Rob. No, sì, quindi come me. Quindi mi avevi detto, cioè, le Grand Prix, quante ne hai Grand Prix? Allora, Grand Prix per la 27 sono due. Poi le altre sono tutte quante veicolari e gommini. Grand Prix per le U sono una, due, però una me la vorrei tenere io. La piccolina, me la vorrei tenere io, così quando sono in camper uso anche quella. E poi altre, però te le devo far vedere. Per altre frequenze? Cosa, Robè? Metto, te devo far vedere l'altra, ma per che frequenze? Sempre foto te devo inviare. Mandamela e mi fai vedere, così la metto per il ricevitore, perché così ne metto una in più di antenna, perché io ne ho una che fa VU per il piccolino, ma secondo me non sta funzionando bene, perché ascolto male, eccetera. Funziona meglio la multibanda di Ghita, che è quella dedicata. Comunque, adesso ti mando quella per la 27, quella che era ben per la 27, così se per caso senti qualcuno te la fai vedere. Ma grande, vabbè, a me non interessa, posso chiedere, ma non è facile venderla. Magari uno in campagna, cos'è? Quella grande è un quarto d'onda o qual è? No, è quella che è 2,32 m lunga e c'ha tre radiali. Ah, quindi è quella da un quarto d'onda più o meno, perché io ho la mini Grand Prix, quella piccolina caricata. Oh, non lo so, Robert, comunque adesso ti invio la foto. Ehi, così scrivi anche i prezzi, vediamo un pochettino. Ma le ha recuperate tu o ce le avevi già? No, è roba che ho trovato, mi hanno dato in poche parole. L'hanno trovata e me le hanno date. Ah, no, ma sono belle cose allora. Quella della cosa, fammela vedere, molto grande è quella delle U. Ma di lunghezza totale? Eia. Non tanto, Roberto. Tu pensa che io ce l'avevo. Ce l'ho ancora dentro la busta, l'altro giorno l'ho aperta, guardato e richiusa. Eia, tutto in alluminio, No, in vetro resina. Ah, in resina è la tua, meglio ancora. Tutta quanta in vetro resina, anche la Dragla Play è in vetro resina. Ah, non è in alluminio, quindi è una cosa anche discreta come costruzione. Tutta quanta roba seria, Eia, è questa qua che marca è questa per le U? Non me lo ricordo, comunque è sempre dell'Assirio, tutta quanta roba dell'Assirio, Eia, vabbè, me la mandi, quando c'è 5 minuti di tempo me la mandi. Ok, facciamo un attimino di bianco, vediamo se è rientrato Giulio o se deve entrare qualcuno. Avanti un po'. Stamattina ero di lì da te, c'era coso, mi hanno fatto bill di mezz'ora per una cosa e poi alla fine dovevo ritirare un documento e poi alla fine questo documento era già stato, mi aveva già portato su Lorenzo. Mi ti sto inviando la foto, Robe. Come mai da noi? Te l'ho detto perché mi ha, come si chiama, dovevo ritirare il formulario, la coppia, la quarta coppia, però dice l'aveva già portata Lorenzo, io sono occupato, vabbè, sono sceso per altre cose, e l'aveva già consegnata lui, a mia figlia. Ah, quando è roba lo prendono e lo danno a chi deve salire in zona. Che è, avanti, chi chiama? Guarda, l'amico, ti ascolto, piccolino Santiago 7, però sei in mezzo al QRM, se vuoi ripetere il tuo nominativo è da dove stai modulando. Bene, non riesco a copiarti, tu lo ascolti, Daniele? Sì, io lo sento un pochino forte, solo che c'ho mia figlia e sta facendo casino, non riesco a capirlo. Non ho capito se è da Furio o da dove. Avanti, se mi occupi, qua operatore Roberto, città di Sassari, QSL, cioè il QRM è altissimo, non riesco a capire, credo che può muovere lo smitter questi giorni, e poi c'è una propagazione allucinante oggi, poco fa c'era tutta la bassa Italia da tutte le parti, uno sopra l'altro, un montinaggio. Mi sono fatto un giro poco fa quando è acceso fino al 28 MHz, proprio propagazione a non finire, però sono francesi e inglesi e tedeschi a non finire. Comunque mia moglie mi ha detto che è uno spagnolo questo qua che stava parlando. E adesso non lo sento più, sto guardando quello che mi ha mandato, questa è una, come si chiama, una Grand Plane, una 27, URSI Gold si chiama, Sirio Keeper 27. E quella in busta cosa sono? Sempre quella lì? Sì, ancora dentro le buste sono, e per far vedere che sono dentro le buste ancora in celofanate. Comunque stavo riparlando adesso mi robe. Aspetta, avanti, chi chiama? Vedo che parla, però non capisco, ti ripeto, c'ho il QRM quasi 7. Ma questa nella busta, Sirtel, che cos'è? È sempre quell'antenna. È sempre la marca di quell'antenna. Ma non è Sirio, c'è scritto Sirtel qua. È son della Sirio, la Sirtel. Ah, non lo sapevo, boh. Questa qua è particolare, è bella, come costruzione è fatta bene, quella nella busta, quella che si vede Sirtel, sembra una buona costruzione. Sono ritornato in frequenza? Vai giù. Ok, allora Dani, allora io ho parlato con l'amico, adesso lui forse riesce a risolvere il problema dell'antenna che aveva avuto oggi della difficoltà, perché non gli si era rotta, forse. Però dice, non è sicuro, se eventualmente se non dovesse riuscire, mi avvisa e poi magari ci mettiamo in contatto, ecco, io ti do il numero suo o il tuo, io mi dai il tuo adesso a me, no? E poi lo facciamo avere a lui e vi mettete in contatto. Però adesso prima fa questo tentativo, se gli riesce va bene, se no vuol dire può anche pensare di prenderne una, così almeno provvisoriamente va avanti con quello. Dimmi una cosa, che antenna è, 5 ottavi, cos'è, mezz'onda o quarto d'onda, com'è? Se non sbaglio è una 5 ottavi, no, oh, aspetta che devo guardare il sito, non me lo ricordo. Un quarto d'onda è giù, mi ha mandato la foto. Ah sì, un quarto d'onda, giusto. Ah, ok, va bene, d'accordo. D'accordo, dai. Adesso sentiamo, se lui riesce a sistemarsela, magari, se no eventualmente vi mettete in contatto, o tu a me magari, o ti do io il mio numero di telefono e poi mi fa uno squillo, così ce lo avrò anch'io e tu avrai il mio, e poi eventualmente tramite telefono ne parliamo con lui, sempre che, ripeto, non riesca a sistemare quella che ha adesso, perché è la mantova turbo che ha un problema un pochino serio e non sa se riesce a sistemarla, e ci sta provando, insomma, ecco. Va bene, dammi così, se mi dai il tuo numero oppure io te do il mio, prendi la penna, te do il mio e poi mi fai lo squillo, così mi rimane il tuo numero, ok? Ok, là, facciamo così, il numero di Roberto ce l'hai tu, Giulio? Oppure al contrario, Roberto ha il tuo numero? Ah, oh, aspetta un attimo, Giulio. Sì, avanti Roberto, sì che ce l'ho il numero di Roberto. Giulio, ti mando le foto che mi ha mandato a me lui, te le sto mandando adesso, e si vede bene l'antenna. Ah, va bene, d'accordo, d'accordo. Casomai mi mandi anche il numero di telefono di Danilo, o Roberto, così c'è anche quello. Eventualmente se necessita di contattarlo, poi lo faremo tranquillamente. Però ripeto, l'amico adesso sta provando a sistemarsela, se non gli riesce, perché ripeto ha un problema un po' serio, se non gli riesce allora vuol dire provvisoriamente se ne comprerà una, allora è il caso proprio di contattare a Danilo. Va bene, spediscimi la fotografia e anche il numero di Danilo, visto e considerato che Danilo mi stava dicendo se noi possiamo essere in contatto telefonicamente, così lui mi manda tu mi mandi il suo numero, eccetera eccetera, ok? Ehi, te l'ho mandato su Vodafone, dove lo vuoi giù? Sì, non c'è problema, tu manda a uno qualsiasi, già arriva sia l'uno che l'altro, non c'è problema. Adesso ti mando anche il numero di telefono. D'accordo, vabbè, ti ringrazio. Avanti Dani. Sì, beh, facciamo così Giulio, per non dare il numero di telefono qua in radio. Se no qualcuno che continua ad ascoltare, che sta solamente ad ascoltare, prende il numero e incomincia a fare gli scherzetti. Comincia a fare così, a passaggio da persona a persona. Comunque, se ti servono anche le foto per le altre antenne, Robè, io se vuoi te le faccio dopo. Anzi, tra un po' se vuoi te le faccio, così vedi anche un pochino di cosa stiamo parlando. Ehi, avanti e mi scrive anche il prezzo, così poi eventualmente ci mettiamo d'accordo. Ok, dai, faccio, ti invio il prezzo di questa, così dopo lo spedisci, oppure lo mando io dopo a Giulio, dai, è uguale. Avanti col becco. Da questa parte Danilo da Sassari, poi c'è Roberto, Quadrato e Giulio, sempre da Sassari. Ok, ciao Giuliano, qua è Danilo. Sì, qua fai 9 a volte 9 più 10, con una radio 5 un pochino di QRM sotto, comunque già sei orecchiabile senza problemi. Ma voi lo sentite Giulio e Roberto? Sì, lo ascolto perfettamente, riprendo io e poi passerò il mic a Giulio. Gaetano, ti ascolto perfettamente, anche qua 9 più 10, la radio chiara, potente, pulita, ho capito che sei vicino a Gioia Tauro, Terranova, qua questa è la città di Sassari, siamo circa 20 km dalla costa, dal nord della Sardegna, mi dai un controllo a me e poi ti rilancio l'amico Giulio. Avanti di nuovo Gaetano. Avanti per Giulio, così vediamo come arriva lui, K. Ok Gaetano, non so se tu mi ascolti perché sto uscendo in maniere un po' precarie. Io ti super saluto intanto, è un piacere ascoltarti, avanti. Probabilmente ci siamo sentiti altre volte, magari negli anni passati, sempre su propagazione. Avanti Gaetano, si è ascoltato, cambio. Ok Gaetano, sì, beh, sto andando con 3,5 vatti, con un baracchino vintage, un baracchino di 50 anni fa, per cui le condizioni sono quelle. Purtroppo al momento non posso avere nessun miglioramento, magari durante la settimana probabilmente sì, ma adesso no. Ok, ti rimetto il microfono e poi fai girare tu, vai ancora Gaetano. Ok, ciao Gaetano, grazie per essere entrato a salutare, grazie per il collegamento. Giulio ti super saluta e ti mando avanti Roberto per i saluti finali. Avanti Roberto per Gaetano. Sì Gaetano, anche da parte mia, credo di averti già sentito insieme a Giulio, credo l'anno scorso, sempre un piacere riascoltarti, speriamo si verifichi di nuovo questo collegamento. Ti auguro una buona giornata e buon tutto. Ti rilancio l'amico Danilo per te, per i saluti. Sì. Sì, ciao Giuliano, già ci sentiremo più avanti, quando ci sarà un altro pochino di propagazione bella come oggi, magari in questi giorni pure. Comunque noi siamo sempre in questo canale la maggior parte la sera e qualcuno anche la mattina. Comunque ci ha fatto anche piacere a noi a sentirti a te. Grazie, ciao. Giulio, ti è arrivato tutto quello che ti ho mandato? Sì, mi è arrivato. La fotografia dell'antenna non è che si vede un granché, è un po' sfocata, ma comunque va bene lo stesso, non è un problema. Sì, va bene così, Robe, grazie. Bene. Allora, la propagazione c'è, però io, le condizioni mie non sono molto buone, per cui però bene o male, almeno in radio mi ha sentito, anche se con un segnale non molto alto, però no, nemmeno molto basso direi, con 3,5 watt di questo ferrovicchio che sto usando, non è male insomma, ecco. Va bene, dai, avanti Dani. Ehi, ferrovicchio con 3,5 watt giù. Ma molta gente qua sa se la mette in tasca, insomma, c'è sempre l'imbecille, no? Che fischia continuamente. Ecco, vedi, l'imbecille c'è sempre, vedi? Però questo è più basso il segnale, questo è 9, poco fa era 9,20 il segnale del fischio. Già lo so, l'abbiamo sgamato, Roberto, l'abbiamo sgamato comunque. È una persona che è oltre la sessantina, sicché ti puoi immaginare, già l'abbiamo sgamato. Buon divertimento per lui, non so cosa dirti io, ci mancherebbe. Mi dispiace, succedono ancora queste cose qua, c'erano stati dei periodi che durava brevemente, ma qua si sta prolungando la situazione. Continuiamo a parlare, vediamo un po'. Ok, Dani, non sono riuscito a mandargli quello dove ci sono proprio le caratteristiche dell'antenna giù, che mi ha mandato un file, non sono riuscito a mandarlo, non ci riesco, perché c'è proprio la foto dell'antenna con le dimensioni, guadagno eccetera eccetera giù. Se me lo mandi di nuovo, perché non me lo fa mandare, non ho capito perché. Devi fare la stessa cosa, copia e incolla, non dovrò per inviare lo stesso, Robert. Non riesco a inviarlo. Le foto le ho mandate, quella della busta e quell'altra aperta, però dove ci sono la foto proprio, le caratteristiche, mi fa connettere, perché ti collega con un coso. Aspetta un attimo. Ah no, questo sei tu Daniele. Aspetta. Avanti. Adesso è andata bene, sì, l'ho mandato giù. C'era un altro che stava facendo una chiamata. Chi è che chiama? Avanti sul canale 10. Io non intendo nessuno. Così è la propagazione, così Robe, non è un granché. Hola chicos. Antonio. Buonasera a tutti, buonasera, mi sono appena rientrato. Tu sempre in giro, già se ne affutti Antonio, allora travagliare devo. Anche almeno sei sempre in giro, te la città, conosci tutte le vie, conosci un po' di gente, e cosa vuoi di più? Lo so. Adesso la signora mi ha preparato a mangiare, scendo giù e si mangia. Oh, yeah. Ci buttavano di burro sul golpino e no, che si azzeve. Ok dai, continuate, non so chi c'è, comunque buonasera a tutti, io vi saluto. Ok, stiamo facendo già a mangiare. Siamo i tre porcellini stasera. Ui, buonasera. E beh, a tu. E beh, mi. La voce. Capo, dai, io sono già a mangiare, ci sentiamo dopo. Eia, a dopo. Vai giù. Ok, ciao a tu. Ben arrivato, vuoi mangiare, vai, così almeno cresci, tanto sei salito. Va bene così, non c'è problema. Sì, sì, adesso è arrivato bene, adesso sì, si vede molto bene una fotografia o robe, così va benissimo, non c'è problema. Avanti, Danilo. Sì, giù. Se per caso riesci a inviarmi anche un messaggio, così... Sempre se te l'ha passato il numero, Roberto, ma penso di sì perché l'ha detto. Se riesci a mandarmi un messaggio, così abbiamo anche il contatto fra noi due. Certo, ci stavo già pensando. Infatti, adesso lo stavo guardando. Adesso ti faccio uno squillo e così ti arriva il numero, ok? Ok, dai. Comunque ieri lo stesso in propagazione eravamo a 27.670, ho collegato Lecce e poi ho collegato Parigi, un tipo di Parigi, poi c'era anche Chiodo Arrugginito, hai fatto anche l'Arrugginito e ho detto ragazzi per essere così vicini siamo ben bassi noi di segnale. Ma a volte capita che questi segnali di propagazione arrivano più forti di magari di qualche paese vicino. No, io ho collegato, se non ieri, forse avanti ieri, c'era la Romania, la Germania, da tutte le parti della Germania stavano chiamando, parlavano discretamente l'italiano. Belaghito era convinto, forse che mi fa vedere con la ciao bella, ciao, forse sapeva qualche parola in italiano, questa qua, come quando trovi una ragazza, cerchi di dico. E questo usava le parole per le donne, le stavo usando per i maschi. A consuire allora. Ma tu cosa c'è? Il nominativo per la 27? SWL, sì. No, quello per la DIX. Non lo so perché avevo fatto la domanda, mi hanno dato, non ho neanche detto se c'è qualche nominativo, quello del ministero, devo vedere, perché ti hanno dato nominativo? Aspetta Robert, quello per l'SWL è una cosa, poi c'è quello per la 27 MHz, che in poche parole sono gli 11 metri, e poi c'è anche quello per il PMR. I nominativi, tutti quanti nominativi sono. E chi te li dà questi nominativi? Il ministero. quanta roba di ministero è? Devi pagare una tassa annuale e ti danno un nominativo per parlare a lunga distanza. E questo da quando? Se l'hanno tolto la tassa dei CB e dei PMR? Quest'anno, da quest'anno non si paga più, anzi da luglio dell'anno scorso. No Robè, tu ti stai confondendo, scusa un attimino. In poche parole questa tassa che hanno tolto è quella che stiamo facendo noi adesso. A basso raggio, a corto raggio. Quella che ti sto dicendo io per lunga distanza è quando vai in banda laterale e ti metti a parlare fuori. Tipo in 27, tipo adesso metti in banda laterale e ti metti a parlare in lunga distanza. Quella lì è che ti sto dicendo io. Mi adesso ti invio il link. Manda, ma non lo sapevo di questa cosa. Comunque c'è qualcuno che sta facendo lo spiritoso ancora. È un deficiente. Danilo, guarda che ti ho fatto lo squillo. C'era la segreteria, però adesso il numero ce l'hai, Sì, già l'ho vista la chiamata. Infatti stavo parlando e ho chiuso la chiamata. Ma mi hanno sovramodulato. Sentivo sotto roba quando stavi parlando. Allora dagli segnali lì. Attenzione città di Sassari che chiama, avanti gli amici dell'Italia. No, c'è un deficiente in mandare la canale si è messo, Robè. Un po' in AM e un po' in bandana laterale, è sempre il solito imbecille. Avanti sul canale 10, città di Sassari. Ma a te te l'hanno dato questo nominativo, Dani? Ancora no, Robè, però ci sto pensando a prendermelo. Almeno posso parlare. parlare tranquillo anche in banda laterale in tutta quanta gli 11 metri, da. Perché non puoi parlare comunque? No, in questa dove siamo adesso sì, nei 40 canali nostri sì, se tu vai oltre i 40 canali e parli e vai a parlare, se ti sgamano sono cacchi. Ah, vabbè, non lo sapevo, vabbè. Perché puoi andare oltre i canali normali. Sì, in poche parole, il baracchino normale è da 0 a 40 canali, ci sei? Le radio vanno anche oltre, è al di sotto dei 40 canali. Per parlare con quelle, in quelle frequenze lì serve questo nominativo qua. Ma questa è una cosa nuova, non l'avevo mai sentita io questa cosa qua. No, c'è da parecchi anni roba, infatti se ti leggi quei link c'hanno anche 17 anni, 16 anni. Ehi, aspetta, c'è qualcuno che chiama, avanti, chi chiama Sassari? Sì, non ho capito il tuo nominativo, la radio è un po' disturbata, molto forte il segnale, però la radio non ti sento perfettamente. Qua Sassari, operatore Roberto, avanti, qua c'è. Guarda, forse c'è la radio troppo compressa o troppo caricata, perché non riesco a capire. Dani, cosa ha detto? Non l'ho capito. Sicuramente troppo amplificata e non si riesce a capire. Perché sembra troppo compressa, quando c'è potenza ti mangi un po' la radio. Il segnale è 9 qua, mi stai arrivando, l'amico. La radio è anche forte, però non riesco a capire quello che dici perché è satura. No, non riesco a capire, adesso si è abbassato il segnale a 7, però non riesco a tirarti fuori. Qualcuno di voi è riuscito a sentire? No, io ho un bel segnale dei 9 più 10, però radio pessima, proprio inorecchiabile, non si comprende, non si capisce niente. Io lo stesso, no? Prima lo sentivo del radio, ma adesso si è abbassato e del radio non lo sento più perché si è abbassato molto anche il segnale. Vediamo un po', vieni avanti di nuovo l'amico, identificati, nome e città di trasmissione. Vabbè, sono preso. Ok, stavo dicendo, Dani, mi è arrivato adesso quel link, me lo voglio leggere con calma e vediamo un pochino. No, mi interessano queste cose qua. Poi non sapevo che c'era, io sapevo che non si poteva andare oltre i canali dedicati dall'1 al 40, anche se tutti poi vanno 45, 50, io non ci vado, non mi interessa, già c'è poca gente qui, figurati poi, però è sempre interessante avere un nominativo per identificarti. Infatti qualcuno risponde, quando lo chiamo, poco fa c'era uno che mi ha dato un nominativo, ma gli ho detto c'era un OM, mi ha detto no. No, sì, Robè, è molto carina questa roba qua, ma anche per il PMR mi è la stessa cosa, per il PMR lo stesso, se vuoi parlare devi avere un nominativo, sempre per quella storia lì. Comunque già è molto carina questa roba qua, anche perché il nominativo è come il nominativo dei radioamatori, c'hai un numero, lettere e numeri, invece nel radioamatore lettera, numero, lettera. Invece questa qua è al contrario, cioè numero, lettera, numero. È molto carino. Io già due me li sono orecchiati bene, perché ci ho parlato un bel po' ieri. E poi alla fine sono venuto a sapere che non si poteva parlare. Che avanti? Ma cosa stai dicendo? Sì, a torre di controllo. Vabbè, qua. Vabbè, questa è una cosa nuova, comunque, vabbè, comunque, io sempre IS0 sono, capito a te come faccio a darti la sigla IS0, sei una sigla di Stato e tu non sei radioamatore, ma non mi sente Danilo? No, ha detto, Cla, non inizia con una lettera, inizia con un numero. Ma come fanno a dare la sigla IS0 per parlare in PMR se è una sigla di Stato, devi avere la patente, non capisco, cosa vuol dire? No, non ha detto così, ha detto i radioamatori iniziano con una lettera, IS0, mentre qua ti danno un numero seguito da una lettera, non c'ha niente a che vedere con questa roba qua, per permetterti di fare collegamenti a lunga distanza, non lo sapevo, una cosa nuova. Avanti Danilo. Sì, avanti, chi è l'amico che chiama? Sì, Alfredo da Catania, così, confermo. Allora, il mio nominativo, diciamo il nome qua è Roberto, quadrato il nome in frequenza, poi in compagnia di Claudio Torre di Controllo, Sparviero, Giulio Dollaro e Danilo. Ti rilancio a Torre di Controllo, Claudio avanti a te. Io non sono più Torre di Controllo, la torre è caduta, io sono Claudio Sparviero e basta. Buonasera, non so se mi ascolti, avanti. Io ho 4 watt, comunque non è che sono, anch'io sono in condizioni precarie perché mi sono trasferito da poco. Io modulo in campagna, ok? Zona campagna, vicino Sassari. Avanti Danilo, se mi ascolti. Sì, ciao Alfredo, io ti sento forte e chiaro con un segnale 9 più 10, a volte anche picchi di 20. Sì, qua siamo a Sassari, nord Sardegna. Passo a Giulio. Ok, ciao Claudio, ben entrato, e ciao l'amico di... Non so se riesci ad ascoltarmi, perché anch'io sono in condizione precaria, per cui io ti sento un po' bassino, comunque ti sento, capisco benissimo quello che dici. Ti rilancio ancora il microfono, avanti l'amico di Catania che mi sfugge il nome in questo momento, ma lo sono già dimenticato, vai. Chi è? Comunque l'amico si chiama Alfredo. Alfredo, avanti di nuovo a te da Catania, qua questa è la città di Sassari. Ti tiro fuori, il segnale è molto buono, 9, anche non ti porti neanche quel rem. Il problema è che c'è una radio troppo compressa e ti sento appena di radio. Molti passaggi non riesco a sentirli. Non perché non sia forte, è troppo amplificata, probabilmente la stai saturando, stai tirando troppa potenza. Ecco, sono rientrato, Eia. Ma se c'è l'FM forse è meglio, prendiamo meno disturbi in FM. Cos'ha detto l'ultimo passaggio? Dani, cosa ha detto? Non ho capito. Ha detto se vuoi fare la prova, ha detto l'amico. Attenzione, copi il bombolo dalla Sardegna che fa chiamata Antonio da Sarcia di K. Dai, proviamo in FM, vediamo se lo ascoltiamo meglio. Dai, un attimino e poi ci rimettiamo in aria. No, non c'è problema. Io rimango nella M, non ce l'ho l'FM. Va bene, ciao Antonio, un bene. No, non ne abbiamo noi FM. Giulio. FM, io non ce l'ho l'FM qua, per cui va bene così. Sì, ci sono loro le FM e dunque splatterano, perché io le FM non ce l'ho, Claudio, mi ascolti? 5. Siamo tornati qua in AM, KK, io a voi andare, bello bene. Ma io sto chiudendo, dai, già ci sentiamo un altro momento. Comunque Claudio, ti invio questo link di questi così prenominativo. Dai, così ci aggiorniamo, ci facciamo due chiacchiere. Dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti. Ciao Roberto, ciao Antonio, ciao Giulio, ciao Claudio. Ciao ciao, ci sentiamo, dai. Bene, ti arrivo con le coordinate di Sant'Orsola. Eia, lascialo così, la radio non la ducca. Dai, riprendo io. Ciao Dani, ben sentito, dai, abbiamo dovuto di ascoltarci, anche io qualche minuto e vado via, devo andare a mangiare, dai. Fammi sapere di quella roba che abbiamo parlato prima, Dani, e poi basta. Avanti Giulio per il saluto. Giulio, vai là. Giulio! Boh, tutti fuggiti sono. No, si deve andare, dove è a Casuganari? Giulio, era qua, ha detto in AM, ritorniamo in AM, perché ho fatto un passaggio brevissimo in FM, mi ha detto non ne avevano, infatti siamo rientrati subito qua. KK, ok, non c'è problema. Sblatterendi, cacchiduno. Facciamo i bravi, giovanotti, facciamo i bravi. Vediamo se l'amico di Coso, di Catania, Alfredo, c'è ancora. Poco fa eravamo su 17, c'erano gente, Siracusa, Catania, eccetera, eccetera. L'ho ascoltati bene, anche in FM. Vediamo Alfredo se mi copi ancora. Vediamo se è rientrato Giulio. Mi pare che ce ne sono fuggiti, mi pare a me. Infatti volevo salutare perché adesso vado a mangiare. Tu già mangiato, Antu? No, ho già mangiato. Già mangiato. Com'è il segnale lì da te? 9 più 30, ti basta, Cappa! Ehi, hai l'altro, il grande, non lo stai usando, Antu? È un passaghiccio. Come? Ti andà peggio. 9 più 30, ma picchi anche qualche cosa in più. No, ma non esagera, cacchio, cosa c'è, attaccato a me, già basta così. Siamo di nuovo qua, Ehi, avanti Giulio. Ok, c'è anche Claudio, dai, per un attimo siamo passati sul altro canale, per un QTC e siamo rientrati subito qua. Avanti Claudio. Sì, ciao, dai, non so se mi ascoltate, ripeto, sono ancora in condizioni precarie. a tempo e a luogo mi farò sentire meglio. Comunque vi saluto tutti cordialmente se mi state ascoltando e vi lascio. Vado a fare qualche altra cosetta e poi a cenare. Ciao Giulio, ciao Roberto, ciao Antonio, Danilo se mi ascolti e niente, dai, un saluto circolare a tutti. Avanti Antonio. Ehi capo, ciao, salutoni Claudio, e ben sentito e cordialità che... Avanti Giulio. Ok Anto, va bene, dai. Va benissimo così. Ciao Claudio, salutoni. Grazie ancora di tutto, ci sentiamo molto presto, va bene, dai. Avanti, Danilo. Danilo non c'è più, è andato via, che lui è andato a mangiare, infatti vi voglio salutare anche io. Stavo aspettando che rientravate. Comunque ciao Claudio, con tutto, dai, quando vuoi passa. Ciao Giulio, ciao Antonio e tutti i miei tuoi amici qua sul canale 10. Io faccio corretti perché a parte va giù un po' di fame e sono anche un po' stanchino oggi. Ciao ciao a tutti. Ok, ciao Roberto, ci sentiamo nel prossimo, allora dai, a domani eventualmente. Riprendo Anto per salutare. Ehi capo, ciao Roberto, ci risentiamo domani, ciao ciao. Vai. Ok. Bene, bene, tu, sì che tu hai già cenato, no? Ma tu vai. D'altronde tu stai a lavori e per cui arrivi un po' tardino, però va bene lo stesso. 10 minuti, ci accontentiamo lo stesso, Anto, non c'è problema, figurati. Poco fa c'era il solito deficiente, mettendo la portante, no? Sempre il solito cretino, però forse se si è reso conto e poi ha smesso. Ehi, quando mai? Deboli, signor Ghisotto, dilli! Che protocollo tanto! Ehi, vabbè, dai. Anche lui è un po' deficiente, per cui lasciamolo fare. Faccia come crede, intanto lo sappiamo che... Ma è una cosa incredibile, comunque va bene lo stesso. E allora, oggi siamo arancioni, Antu, il primo movimento c'era in giro. Ah, aspetta, mi senti lo stesso così? Sì, oggi arancioni. Ha abbassato un po' di potenza, di noi, no, Ghioia. Va bene lo stesso, io ti sento, non c'è problema, Antu. Non c'è problema, quando non c'è bisogno di potenza non emettere. Per cui già va bene lo stesso, già ti sento ugualmente. Spero che riesci tu a sentirmi, perché io con questo baracchino a 3 watt, 3 watt e mezzo per l'esattezza me ne segna il wattmetro e niente di più. Però mi consente, anche ieri ho parlato con Marcellona, la Svizzera, eccetera, ci accedi tu anche, per cui già va bene, dai. Già va bene lo stesso, anche poc'anzi con il Sud Italia, non mi ricordo dove era, forse Vibo Valentia, non lo so, va bene lo stesso. Solo che cosa vuoi, è quello che è, quando c'è propagazione che si accavallano, non è che ho molte possibilità, ma mi accontento, non c'è problema, vai tu. Capa, no, io mi faccio il largo. Ehi, vabbè, comunque così, tra un po' andiamo a cenare anche qua da me, per cui adesso sono qua e poi si verrà e domani sarà un'altra giornata, speriamo bene che non piova, ma mi sa che domani piove, ho quella sensazione, staremo a vedere. Riprenda tu. Capo, ieri a Vicenza sono arrivato Santiago 9 qualcosa, radio 5. Ma il segnale mio, Santiago 9? No, a Vicenza, con l'amico di Vicenza ieri, sono arrivato a Santiago 9. Ah, infatti, no, già sei arrivato, ma anche poco fa ti ha risposto, non so se l'hai sentito quello, quando tu l'hai chiamato, lui ti ha risposto, forse non l'hai sentito tu, perché arrivava molto basso lui. Non credo che mi rispondi già, non l'ho sentito io, l'ho sentito per un pezzo e poi no, già non credo che mi rispondi già, ma gli ho fatto il largo, ma gli ho fatto. Già ti ha risposto, sì, solo che lui poi si è abbassato, prima era Santiago 9, quindi a me poi è diventato Santiago 5, poi addirittura era più o meno di 3, Santiago 3 anche di meno, e del radio non si sentiva più, già a Santiago 5 del radio non si sentiva più, era troppo basso. Va bene, dai. Dai, ti lascio, Antu, vado a cenare, sono le 8:11 minuti, per cui sicuramente è già apparecchiato mia moglie. Magari mi sta aspettando che io scenda giù per la cena. Ciao Antonio, grazie per essere entrato di nuovo a salutare anche stasera. Va bene così e siamo contenti tutti. Ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Danilo se siete ancora all'ascolto. E ciao anche al portantista, va se c'è. Anche a te, anche lui vogliamo bene. Ciao Antonio, riprendi. Ciao Donigio. Hola chicos. Chi è che può entrare in canale 10, KK? Qui Antonio che fa chiamata dalla città di Sassari, cambio! Oh yeah! Hola! Oh yeah! Hola! Vai, bella chicos! Ehi ragazzi, dai che ci ho fredda le mani, volete entrare? Cappa! Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio che fa chiamata! Dalla città di Sassari, cappa cappa! Ti sento pio pio pio pio pio, Datti una regolata, amico! Aumenta, aumenta! Avete molto bravi qua! Attenzione, binario 10, binario 10. Ora, ora, yeah! KK, chi è che chiama il bombo alla Sardegna? Vai amicacci, cambio! Diamoci la regolata qua, Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio che fa chiamata dalla città di Sassari, KK! Avanti, avanti, avanti, buonasera e ben sentito! K Italy, qui Sassari, Uri for Charlie, Alfa, Biela in culo. Avanti, avanti! Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio dalla Sardegna che vi ha chiamata. Cambio, cambio, cambio! Attenzione, binario 10, binario 10, copiate Antonio che fa chiamata KK. Attenzione, mi sentite, cambio. Fate bravi, fate bravi, K. Appigliala. Sentite, binario 10, binario 10, copiate Antonio, K, pigliala il culo. attenzione, copiate Antonio che modula Sardegna, KK, Magna Cazzofa. E capo poi mai grave c'è, non so se mi copi da quelle parti. Buonasera. KK, mi copi da quelle parti. Via, ciao cammino da anni voi. Ehi, mangia la cazzofa! Allora cos'è la cazzofa in Sassarizzo? Italy, Italy, che chiama dalla Sardegna. E avanti, avanti, io già ti sento, tu mi senti da quale parte? Se ne comprendo un cazzo di onghi. Ja, nur zu reden da. Ich bin da steht, in der keine Deutschland und sitzt das von innen an die Augen führen. Das ist grober Unfug, da kann nichts passieren. Du hast niemand so leid, ich kann so ruhig dran kriegen, das ist gar kein Problem. Abmahnung, was man auch gar nicht so eng sehen, das ist ja so ähnlich wie so eine Post von, wenn man die Gewerbe für Post von Ubi kriegt, also ich mache mir das viel Gedanken. La cazzofa, ti amo la cazzofa.